Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. 200-250 mila dollari, questo è il prezzo per un volo suborbitale turistico, almeno nelle intenzioni delle compagnie che stanno tentando di sviluppare questa prospettiva. Qui non si parla di entrare in orbita, ma di fare un lungo salto fino a 100 km di altezza, abbastanza per mettere il naso fuori dall'atmosfera e sperimentare una condizione di microgravità. Per parlarcene è tornato a trovarci Marco Zambianchi, presidente dell'Associazione Italiana di Spazio e Astronautica ed esperto di Space Operations dell'ESA. Bentornato Marco. Buonasera Maurizio e a tutti gli ascoltatori. Allora Marco, veniamo ai protagonisti di questa gara, diciamo così, per portare turisti nello spazio. Ma guarda, c'è sicuramente un protagonista storico che è Virgin Galactic, dell'imprenditore britannico Richard Branson, che da tanto tempo sta sperimentando il suo Spaceship One e poi Spaceship Two per offrire dei voli suborbitali particolarmente spettacolari a dei facoltosi turisti. Sì. Ma forse il primissimo esempio di turismo spaziale arriva ancora dai russi, perché se ricordi, fino a una decina di anni fa erano proprio i russi a vendere il biglietto per una ventina, trentina di milioni di dollari a dei miliardari, mi immagino, mi ricordo in particolare uno del Mistito che ha inventato un famoso software per l'ufficio che tutti probabilmente utilizziamo, che si è stato uno dei primissimi occupanti della stazione spaziale internazionale, non come astronauta ma come turista. Ma come turista. La si è un po' persa. Però torniamo un attimo a Virgin e descriviamo l'oggetto, questa Spaceship One, come si presenta, perché è un oggetto abbastanza strano. Come funziona? Dunque, Virgin Galactic ha messo in piedi una sorta di ibrido dove c'è un speciale aeroplano formato da due fusoliere e da un'unica grande ala, al cui centro è stato appeso un piccolo spazioplano, appunto lo Spaceship Two. Questo aeroplano che ha agganciato lo Spaceship Two vola autonomamente verso i 13.000 metri circa di quota, e a quel punto la navetta spaziale, il mini shuttle, viene sganciato dall'aereo madre, accende il suo propulsore a razzo e comincia con una impennata, una salita in verticale verso i 100 km di quota. Una quota magica, perché è quella stabilita per diventare astronauti. Sì. A quel punto il propulsore si spegne e l'aereo, il veicolo sostanzialmente prosegue nella sua parabola, regalando agli occupanti alcuni minuti di microgravità, equiparabili all'esperienza che hanno gli astronauti a bordo in orbita, delle stazioni spaziali. Certo. E poi, con un meccanismo inventato da Bart Rutan, un ingegnere che ha venduto il progetto a Virgin Galactic, le ali si sollevano verticalmente, sbandierano, come dicono in maniera tecnica, e consentono al veicolo, a quel punto velocissimo, di rientrare minimizzando l'attrito atmosferico. Il mini shuttle a quel punto fa una serie di virate per perdere velocità, si avvicina a una normalissima pista di aeroporto e a terra. Benissimo, e dopo aver descritto questo che è l'approccio appunto di Virgin Galactic, vediamo l'altro caso che sta cercando di sviluppare voli suborbitali di tipo turistico, che è l'azienda invece di Jeff Bezos, grande capo di Amazon. L'azienda si chiama Blue Origin e qui c'è una filosofia invece completamente diversa per un'esperienza che viene proposta però molto simile. Esattamente, qui invece Blue Origin ha puntato direttamente su un design da razzo e quindi avviene una vera e propria partenza come quella di un razzo destinato all'orbita, solo che il razzo è molto più piccolo e all'orbita non ci si arriva. No. Ancora una volta si vuole raggiungere circa 100 km di quota, si ottiene con un razzo chiamato New Shepard, che spinge verso l'altro una capsula dentro alla quale stanno dai 6 agli 8 occupanti, e anche in questo caso, raggiunta una quota determinata, viene sganciata la parte superiore della capsula, che prosegue il suo volo, mentre il razzo è in grado di rientrare autonomamente e, un po' come avevamo detto per SpaceX, riaccende il suo propulsore a pochi metri dal suolo e ritorna ad appoggiarsi su un suo sistema di gambe pronto per essere riutilizzato. Questo è stato tra l'altro già fatto per ben 5 volte in prova e quindi siamo sicuri che la tecnologia è consolidata e pronta, ma in questo momento manca la prima missione ufficiale, quella insomma con i turisti paganti. Ecco, il razzo a terra e la capsula, che cosa succede? La capsula è come un sasso lanciato nello spazio, in pratica, a quel punto, no? Non ha più motori, non ha niente, è un sasso che a un certo punto fa una parabola e comincia a cascare. Esatto, e poi ritorna a terra, ma a quel punto ha un suo sistema di paracadute in maniera molto simile a quello che succedeva con le capsule Apollo lunari. La capsula ha delle piccole capacità di manovra per guidare il rientro, ma a una certa quota si apre un sistema di paracadute che gli consente di rientrare in maniera molto morbida sul terreno, e anche in questo caso la capsula verrà riutilizzata. Ecco, bisogna ricordare, rispetto al rientro dalla Luna, la velocità è molto molto più bassa, no? Quindi insomma non c'è quella fase in cui la capsula praticamente è circondata dalle fiamme. Assolutamente ragione, quando si torna dalla Luna bisogna dissipare una velocità di qualcosa come 42.000 km all'ora e si usa l'atmosfera come se fosse il freno, si va a disperdere uno scudo termico, insomma c'è tutta una sequenza di cose tecniche che devono accadere e che richiedono materiali completamente diversi e un equipaggio professionale preparato a gestire le varie fasi del rientro. Quando invece New Shepard rientra, parliamo di partire da una velocità di 1000 km orari, quindi molto molto inferiore, non serve nemmeno lo scudo termico. Sì, è la stessa velocità di un aereo di linea, fondamentalmente. Ecco, quanto sono vicine queste due società, Blue Origin da una parte e Virgin Galactic dall'altra, a offrire effettivamente il servizio che si sono proposte di offrire? Quanto manca? Perché queste sono aziende che stanno lavorando da molti anni, però mi sembra che effettivamente adesso si avvicini l'obiettivo. Hai assolutamente ragione, entrambe le aziende dichiarano di essere pronte al lancio tra il 2018 e il 2020, quindi tra un paio d'anni al massimo secondo loro. Devo dire che la cosa sembra più probabile per Blue Origin, che non ha avuto problemi durante i suoi test, un po' più problematica per Virgin Galactic, che un paio d'anni fa purtroppo ha perduto un pilota sperimentale in un brutto incidente della Spaceship 2, che è andata completamente distrutta purtroppo, ma rimaniamo ottimisti. Anche la settimana scorsa sono state fatte altre prove anche da Virgin Galactic, quindi rimaniamo verso la data 2018-2020. Blue Origin tra l'altro sta testando adesso anche dei motori molto potenti che non servono tanto per questo tipo di missioni di cui abbiamo parlato oggi, per i voli suborbitali, ma servono per un, diciamo, vettore molto più potente, in grado di mettere in orbita satelliti e quant'altro, capace anche lui di rientrare con la tecnica che ormai abbiamo spiegato, no? della frenata con i retrorazzi. Un'ultima domanda: quando, diciamo, ci si imbarca per un viaggio suborbitale, è abbastanza anche facile scegliere magari di ritornare a terra in un posto diverso da quello da cui si è partiti, no? Per cui in qualche modo il viaggio suborbitale si mescola come concetto a quello di un viaggio intercontinentale fatto in gran parte fuori dall'atmosfera. Quanto è realistica questa prospettiva e quali operatori pensi che potrebbero renderla concreta? Ma è una prospettiva tecnicamente fattibile. Come operatori, gli unici ad avere fatto accenno a questa possibilità è ancora una volta SpaceX, che vorrebbe addirittura utilizzare una versione modificata del suo ITS o BFR, che dir si voglia, per arrivare a portare equipaggi umani da una parte all'altra degli oceani. Rimangono dei grossi punti di domanda per quanto riguarda come gestire la fase di lancio e di rientro di quello che è sostanzialmente un razzo che ha dei rischi anche per le zone limitrofe ben diversi rispetto a quelli che può darti la partenza di un aereo di linea. Ecco. Anche Virgin Galactic però sta pensando, se non sbaglio, a questa prospettiva, che invece insomma fa uso sostanzialmente di un aereo un po' particolare, ma un aereo in grado di atterrare su delle piste. Sì, questo è vero. Virgin Galactic ha fatto recentemente questo annuncio, anche se sembra un pochino meno probabile rispetto a quello che sarebbe in grado di fare SpaceX, ma proprio per gli incidenti di cui ti parlavo. È un'azienda che cerca di stare sul mercato anche con idee innovative, che però insomma devono vedere un pochino qualche successo prima di attirare nuovi clienti. Va bene, grazie ancora Marco Zambianchi. Grazie a te Maurizio, alla prossima. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, continua la nostra corsa attraverso la gara spaziale. Buona serata.